Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti a voi e buongiorno e super benvenuto al dottor Franco Confalonieri. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Dottor Confalonieri, nonostante le vacanze abbiamo lavorato e adesso dopo tutta questa piacevole fatica, perché lei ha un po' il pregio di renderci piacevoli le cose difficili e faticose, questo devo riconoscerglielo, vorremmo mantenere a lungo i risultati ottenuti e abbiamo già l'occhio che guarda alla ripresa, questo sa che butta un po' giù, no? Ecco, allora che si fa? Ma anche qui cerchiamo di dare alcuni consigli proprio semplici. Il primo, sul piano alimentare probabilmente abbiamo preso qualche buona abitudine che sarebbe meglio non abbandonare. Innanzitutto, la prima colazione. Brava, come hai fatto a intuirlo? Bravissima. Esatto, ci siamo abituati a mangiare qualcosa a colazione, proviamo a continuare a farlo, proviamo a concederci quei 10-15 minuti in più al mattino per assumere carboidrati e proteine a colazione, riducendo un po' l'assunzione di cibo, soprattutto dei fuori pasto, durante la giornata. Ad esempio, la famosa crostatina. Crostatina del dottor. O latte coi cereali, o un po' di miele, quant'altro. In secondo luogo, sempre sul piano alimentare, magari abbiamo mangiato un po' più di pesce, perché stavamo al mare, perché c'era la possibilità di trovarlo e di cucinarlo. Manteniamo questa abitudine. Pesce, sì, minimo 2, ma anche 3-4 volte a settimana, rappresenta la cena ideale. Sul piano nutrizionale, sulla prevenzione dell'ingrassamento, sul mantenimento del dimagramento. Quindi direi, alla sera, soltanto proteine e prevalentemente le proteine derivanti dal pesce. E chi ha trascorso le vacanze in montagna, quale buona abitudine può aver preso? Può continuare a mangiare quell'ottima carne di vitello che ha trovato in montagna, però alternandola un pochettino col pesce, o le zuppe, che sono l'accoppiata ideale con la carne nel pasto serale. Perfetto. Vede? Sono preparata. Ok, allora queste buone abitudini sul alimentari manteniamole. Sul piano dell'esercizio fisico non pretendiamo troppo, non partiamo col grande entusiasmo, ho riscoperto il piacere di utilizzare il mio corpo nell'esercizio fisico, quindi mi iscrivo, vado, faccio, ecco, andate tutti cauti. I giorni. No, partiamo piano. Prendiamoci un impegno, perché è importante, magari iscriviamoci a un corso, iscriviamoci a un centro sportivo, facciamo un minimo di investimento economico che poi comunque diventa motivo per, certo, continuare, ma partiamo con 2, massimo 3 volte alla settimana di attività, cercando di farla almeno una volta alla settimana durante il weekend all'aria aperta, perché in questo modo probabilmente ci sarà quella continuità anche quando passa la motivazione o peggiorano le condizioni climatiche, per andare avanti e mantenere, stabilizzare gli effetti di quanto abbiamo ottenuto. Se partiamo forte rischiamo di fermarci subito. Ancora la nostra parola d'ordine? Gradualità. Dottor Confalonieri, grazie per essere stato con noi. Adesso noi andiamo a sentire i titoli del nostro sommario. Caffè, una tazzulella di salute. Lenti a contatto, sei certo di usarle bene? Collo, specchio degli anni. Oggi protagonista della nostra puntata è il caffè. Ci sono delle ricerche interessanti di cui voglio parlarvi e lo faccio molto volentieri, perché la tazzulella è sempre stata molto chiacchierata, come tutte le cose piacevoli. Per anni si è cercato di metterlo un po' in difficoltà, appellandosi ai rischi, controindicazioni, ma dalle ricerche, sono davvero tantissime, la famosa tazzina è uscita sempre a testa alta e può vantare tanti meriti, alcuni di questi davvero salutari. Oggi in studio con me la dottoressa Alessandra Tavani, che è capo del laboratorio di epidemiologia delle malattie croniche all'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Amleto D'Amicis, docente di alimentazione umana all'Università La Sapienza, Polo di Latina. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno, grazie, bentrovati a tutti. Professore, c'era una pubblicità che diceva tempi duri per i troppo buoni, non so se se la ricorda anche lei, ma sicuramente il caffè rientra nella categoria dei buoni e anche lui ha avuto momenti difficili. È vero, ha avuto momenti molto difficili e da quando praticamente è stato scoperto. C'è un aneddoto, ad esempio, molto curioso che ricorda il re Gustavo III di Svezia inflisse nel 700 una pena di morte tramite la somministrazione di dosi massicce di caffè. I condannati non solo non morirono, ma raggiunsero una ragguardevole età. Quindi questo praticamente può essere solo un curioso aneddoto, mentre non è un aneddoto constatare quello che è sotto i nostri occhi di tutti, cioè il fatto che la popolazione che consuma regolarmente quantità moderate di caffè lo fanno da secoli per tutta la vita, e la speranza di vita in queste popolazioni è in continuo aumento. Dottoressa Tavani, quando si parla di caffè, subito si pensa alla caffeina, ma c'è dell'altro. Insomma, con un sorso di caffè introduciamo centinaia e centinaia di sostanze di cui oggi si conoscono gli effetti, direi a volte sorprendenti, e mi riferisco in particolare a quella sorta di protezione nei confronti di alcuni tipi di tumore, come evidenziato da delle ricerche molto recenti. Dottoressa? Sì, infatti, il caffè, quando si parla di caffè si pensa sempre alla caffeina, ma invece il caffè contiene centinaia di sostanze chimiche, e le sue caratteristiche chimiche oltretutto variano a seconda della specie della pianta, se è caffè arabico robusta, e all'interno della stessa specie le caratteristiche chimiche variano anche a seconda del luogo di crescita della pianta, della lavorazione delle barche, della tostatura dei semi, cioè della torrefazione, quel processo termico che trasforma il chicco verde in chicco tostato, pronto per essere macinato e usato per preparare la bevanda, insomma. E in particolare con la torrefazione si formano molti composti, altri si trasformano, altri ne scompaiono, altri appunto si trasformano a costituire delle cose completamente diverse dal caffè, da quello che è contenuto nel seme. È una specie di magia. Diciamo così. Poiché poi i processi di torrefazione possono essere differenti in funzione del tipo di tostatura che si desidera, ogni ditta ha il suo modo di tostare il caffè, è facile immaginare quanto possa essere varia la composizione dei vari tipi di miscele di caffè in commercio. In fondo, non ce n'è uno uguale. Non ce n'è uguale. Ci sono delle ricette che ognuno fa un po' a modo suo. Però in ogni caso tutto il caffè ha delle caratteristiche chimiche di base che possono essere considerate comuni, e quindi caratteristiche proprio del caffè. Le principali sostanze che contiene sono una serie di minerali, tipo il potassio, il calcio, il magnesio, i fosfati. Poi ci sono i lipidi e le cere, che sono soprattutto nel chicco esterno del caffè, sì, che però vengono mantenute certe volte anche nella torrefazione. Poi ci sono degli amminoacidi, ci sono carboidrati solubili e insolubili. Insomma, a questo caffè non gli manca niente. No, vitamine e antiossidanti. E poi grassi terpenici e gli alcaloidi, come la caffeina. Che però rappresenta solamente il 2% del caffè, anche se noi identifichiamo spesso caffè con caffeina. La caffeina è solo il 2% del caffè, il resto sono tutte queste altre sostanze. Però ricordiamoci che anche se vi ho parlato di carboidrati, di grassi, di amminoacidi, eccetera, il caffè nelle dose contenute in una tazza non apporta calorie quando è ingerito, e per cui anche chi vantaggio è a dieta non si deve preoccupare di bere un buon caffè. Certo, professore, però il caffè fa bene, ma questo non vuol dire che dobbiamo esagerare. Infatti voi medici parlate di assunzione moderata, che corrisponde a 280-300 mg di caffeina, ma questa è un'indicazione che credo, per essere rispettata, debba essere tradotta in tazze e forse differenziata per tipo di caffè, professor D'Amicis? Sì, è vero, il limite, diciamo così, considerato moderato è 300 mg al giorno di caffeina, che equivalgono per una tazzina all'italiana, vale a dire di moca o espresso, alle 3, 4, 5 tazzine in funzione della miscela di caffè che si è utilizzata. Come ha detto giustamente Alessandra, la dottoressa Tavani, dipende se c'è molta robusta o molta arabica all'interno. Per quanto riguarda invece altri tipi di caffè, parliamo del tipo americano, non soltanto per il metodo di estrazione, ma soprattutto per la quantità che c'è nella tazza, siamo a livelli di 120-150 millilitri, vale a dire molto più, 5 volte una tazzina di caffè, e questo contiene molto più caffeina, pertanto in quel caso saranno sufficienti 2, massimo 3 tazze al giorno. Ne parleremo nel corso della trasmissione, restate con noi. Una mela al giorno. E adesso parliamo di lenti a contatto, ma vogliamo rivolgerci in particolare a chi le usa occasionalmente o solo durante alcuni periodi. L'estate è sicuramente uno di questi, quando, complice il caldo, la voglia di fare sport, gli occhiali diventano un impiccio e si tendono a sostituire appunto con le famose lentine. In linea con noi abbiamo il professor Pasquale Troiano della Clinica Oculistica dell'Università di Milano presso l'ospedale Policlinico, che è presidente della Società Italiana di Contattologia Medica. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Professor Troiano, allora rivolgiamoci a chi usa le lenti ogni tanto, a quello che voi comunemente chiamate portatore occasionale. E certo, quello che lei dice è verissimo. Indubbiamente l'estate è la stagione dell'uso delle lenti a contatto, perché la lente a contatto, a prescindere dallo sport, comunque avvicina di più, è più estetica, tutto quello che vuole. Comoda, certo. È più comoda, quindi alla fine anche persone che durante tutto l'anno non usano abitualmente l'occhiale decidono che forse per quel mese di vacanza potrebbe essere bello portare la lente a contatto. Ma spesso e volentieri questa cosa si realizza in contesti ambientali non sempre idonei all'uso della lente a contatto. Ricordiamoci che andare al mare e fare il bagno con la lente a contatto è pericoloso. Per cui se veramente si vuol fare questo, bisogna scegliere delle lenti a contatto rigidamente monouso, cioè a dire le metto, vado a fare il bagnetto e poi le tolgo immediatamente dopo, perché la lente si inquina e poi lasciata sull'occhio può andare a creare quelle problematiche, soprattutto di tipo infettivo, che possono essere davvero un disastro dal punto di vista della salute dell'occhio. Monouso, ricordiamo, professor Troiano, che significa che una volta messe, infatti, si tolgono e si buttano. Esatto, non c'è la possibilità di riapplicarle, anche se le ho tenute su mezz'ora, no? Le devo togliere e buttar via. Certo. No? Non posso rimettere solo perché le ho tenute su poco, no, non va bene. Una volta tolte devono essere cestinate. Naturalmente ci sono dei sintomi ben certamente precisi, sì, che avvertono certamente l'utilizzatore occasionale di lenti a contatto che non ha seguito la procedura giusta. Quali certamente sono? Il rossore, sì, il bruciore? Il rossore, cioè il primo sintomo è una scarsa tolleranza alla lente. Cioè improvvisamente oggi metto le lenti e c'è qualcosa che non va, mi danno un po' fastidio. Ecco, non insistere mai, togliere le lenti e farsi vedere da un oculista, no? Perché questo è uno dei primissimi sintomi che trattato al momento giusto alla fine non crea, può essere gestito. Ecco. Se invece si insiste con l'uso della lente, a quel punto poi si innescano dei processi difficili da controllare. Professor Troiano, anche quindi per chi decide di cambiare un po' il colore degli occhi, certo, noi donne siamo più, soprattutto le signore, sono più tentate a farlo. Più tentate, certo. Ecco, questo. Quindi mettere le lenti cosmetiche per le lenti colorate. Gli stessi rischi, professore? Le lenti colorate, ovviamente, pensiamo a questo: una lente a contatto applicata sull'occhio riduce l'ossigeno che deve raggiungere l'occhio. Quando ci mettiamo in mezzo una lente, riduciamo l'apporto di ossigeno. È come mettere un tappo. Esatto. E se questa lente è addirittura anche colorata, il colore riduce ulteriormente l'apporto di ossigeno. Quindi se si decide di utilizzare lenti di questo tipo, oltre alle solite raccomandazioni per la manutenzione più che perfetta, sì, di gestire le lenti con le mani sempre appena lavate e ben asciugate poco prima, immediatamente prima di toccare tutto il materiale che riguarda la lente a contatto, a prescindere da questo, la lente colorata dovrebbe essere utilizzata per un numero di ore inferiore alla lente trasparente classica, proprio per le ragioni che abbiamo detto prima. Quindi, mentre la lente classica non colorata può essere utilizzata 8 ore, la lente ore, questa colorata la teniamo 5, 6, no? E cerchiamo di stare attenti. Ecco, di solito una serata. Ecco, una serata, possiamo concederci una serata. Bravissimo. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata. Io ringrazio lei e tutti gli ascoltatori. Pronto soccorso. Eccolo, Abbiamo, vedi, c'è anche il cucchiaino che gira perché un po' di zuccherino l'abbiamo messo. Torniamo a parlare di caffè, ne consumiamo milioni di tazzine al giorno. Seguiteci perché con l'aiuto dei nostri esperti andremo a conoscere tutti gli effetti che produce in noi un buon caffè. Iniziamo dall'alto, partiamo dalla testa. Il caffè sveglia, professor D'Amicis, dà la carica, ma rende anche più lucidi? Sì, bastasse, dice lei, no? Prego? Bastasse, dice lei, una buona... No, ci faremo il bagno. Sì, beh, no, poi dipende. Farsi il bagno poi non è più tanto lucidità, perché può mettere anche ansia. Il discorso è che la caffeina presente nel caffè, che è in dosi abbastanza contenute, siamo nell'ordine di 60-100 mg per una tazza di caffè, è un blando stimolante, quindi arriva al nostro cervello, capace quindi di passare la barriera ematoencefalica e fornire questa stimolazione. Sì. Rende più allerte, rende più facile il calcolo matematico, questo è stato dimostrato con dei test, rende quindi più sicuro il lavoro manuale durante i turni notturni e cose di questo genere. Pertanto dà questa carica, dà una sveglia e quello che corrobora praticamente la nostra vita. Quando si superano certe dosi però, ad esempio se si prendono 4-5 caffè nel giro di poco tempo, in quel caso comincia a venire fuori anche un certo stato di ansietà che può essere appunto dovuta all'effetto della caffeina. Intanto rispondiamo ad alcuni messaggi prima di dare la parola a Valentina che ci chiama da Padova. Sono Marta, sempre da Padova. Volevo chiedere, la Coca-Cola è come il caffè, ma quale è meglio per una studentessa? Beh, intanto vorrei dire che... Bisogna studiare. Che bisogna studiare. E che bisogna dedicare tempo, probabilmente concentrazione. Sì. Io direi che tra caffè e Coca-Cola non esiste il confronto, sono due cose completamente diverse, ognuna ha il suo buon ruolo nell'alimentazione umana. Il caffè fornisce caffeina, non dà calorie, se uno ci mette un pochino di caffè, il che non è assolutamente vietato, anzi ci sono studi che sostengono che l'uso di un po' di zucchero nelle bevande calde, ossia caffè e tè, può addirittura aiutare a dimagrire, pensate voi. E quindi usare il caffè è una forma di stimolazione senza energia. Nel caso della Coca-Cola, anche questa dà tonicità, ma oltre alla poca caffeina che c'è nemmeno della metà di quella che è presente nel caffè, c'è anche una certa quantità di zucchero. Pertanto può essere utile attirarsi un po' su, a darsi un po' di carica con effetti, cioè con meccanismi diversi. Valentina da Padova, buongiorno e benvenuta. Buongiorno Nicoletta. Senta, io ho preso l'abitudine a bere al mattino un tazzone di caffè solubile. Quindi una mug, diciamo, nella quale verso l'acqua calda e due cucchiaini solitamente appunto di caffè solubile, così perché mi piace sorseggiare questa bevanda calda più che altro al mattino appena sono sveglia, finché mi preparo per uscire. Sì. Quindi volevo sapere la quantità di caffeina che è contenuta, se diventa eccessiva o può essere paragonata a quella del caffè americano. Grazie Valentina. O in ogni caso la qualità di questo caffè, com'è? Anche la qualità. Dottoressa Tavani? Ma io, a me risulta che più o meno in quello che si chiama il caffè istantaneo ci sono tra i 60 e i 70 mg di caffeina per tazza, e quindi diciamo che siamo a livello un pochino forse superiore a un caffè espresso, però non superiore a un caffè moka, e quindi è una dose normale, giusta, insomma, di caffè in una tazza di caffè istantaneo. Per quanto riguarda la qualità, forse il professor D'Amicis lo sa meglio di me. Professore, le passiamo la parola, la tazzina. Grazie, Alessandro già ha dato una buona risposta. Dunque, la qualità è normalmente una buonissima qualità, perché il caffè liofilizzato altro non è che un caffè già preparato, poi privato dell'acqua e pronto per essere ricostituito all'istante. In questo caso, la dose di caffeina dipende dai cucchiaini che uno usa per farlo più o meno carico, certo. Sì, perché se uso un cucchiaino da caffè è un conto, se uso un cucchiaino da tè è già più grande, se ne uso due, ovviamente, ecco, grosso modo un cucchiaino da da tè corrisponde a una tazzina, sì, più o meno, quindi nella quantità sono giustamente una tazza di quel tipo, sono uno o due tazze di moka. E la qualità è sicuramente una buona qualità, dipende anche dal brand in questo caso, perché non tutti usano di caffè di primissima qualità e può dipendere, il costo ha una sua importanza anche nella scelta del tipo di caffè da prendere. Sicuramente non ha assolutamente nessun tipo di tossicità, questo è da escludere, perché in fondo è stata tolta solo l'acqua ad un caffè che era stato già preparato prima. Vogliamo rispondere agli ascoltatori, e sono tanti, che ci chiedono se a partire da che età si può dare il caffè ai nostri figli. Ad esempio Antonio da Lanciano ci scrive: come dobbiamo comportarci con i bambini? Ci sono controindicazioni o un'età minima di somministrazione? Leggo il messaggio di Antonio che racchiude un po' altri messaggi su questo tema. Professore. Dunque, il discorso del caffè è sempre legato alla caffeina. Sì. In questo caso, mentre nell'uomo adulto 4 mg di caffeina per chilo di peso corporeo è considerata una dose da non superare, nei bambini dovrebbe essere circa 1,5 mg di caffeina da non superare per chilo di peso corporeo. Sì. Quindi? E quindi l'uso del caffè moderatamente durante diciamo così l'infanzia, ma non parlo del primo, secondo, terzo anno, sto parlando del periodo scolare, diciamo, dei bambini, non è assolutamente controindicato, anche perché mi pare che nessuno si sia mai posto il problema di somministrare un bicchiere di bevande a base di cola contenenti caffeina nel quel periodo al bambino. Quindi noi la caffeina gliela diamo anche sotto forma di cioccolata o di tè. Infatti, quindi, tutto sommato, un po' perché di caffè pensiamo sempre all'associazione caffè-caffeina, invece la caffeina si ritrova in altre bevande. Ci sono tante persone che non bevono più il caffè o riducono la quantità di caffè pensando che agli effetti della caffeina, in realtà poi fanno ricorso ad altre bevande che quindi pareggiano. Andiamo a Mantova, ci aspetta Sandro, buongiorno. Buongiorno a tutti. La mia domanda è questa: io ho un amico che ha 62 anni, che è sovrappeso. Sì. E lui beve dai 5 ai 6 caffè al giorno, anche prima di andare a letto, senza avere dei grossi problemi. Sì. Però lui ha dei problemi allergici di intolleranza ai latticini, al lievito, al nickel, che gli provocano malessere alla digestione e gli fanno uscire dei puntini rossi sulla pelle, sul corpo. Mm. Può essere collegato anche il caffè, visto che ne consuma molto? Sì, intanto vorrei dire che 4-5 caffè durante la giornata non è molto, è un consumo quasi moderato. Sì. Bisogna pensare allo strumento che viene usato per fare il caffè, perché se si usa dell'acciaio inossidabile, in quel caso non c'è trasferimento di nickel. Sì. E quindi non può avere delle forme allergiche attribuibili al caffè. La quantità di polvere di caffè che si usa è talmente poca durante la preparazione che non dovrebbe essere influente sulla allergia al nickel. Purtroppo il nickel è presente in quasi tutti gli alimenti e di conseguenza è molto difficile poterlo evitare. Torniamo a parlare di caffè. Dottoressa Tavani, restiamo in zona testa. Molti emicranici bevono caffè, alcuni aggiungono anche un'aspirina per calmare il dolore. È come se la tazzina in questo caso avesse un effetto terapeutico. È provato oppure è così? Alcun fondamento scientifico? No, ha un fondamento scientifico. Molte persone lo hanno sperimentato su se stesse e poi continuano ad utilizzarlo, che l'assunzione di caffè con aspirina o anche ibuprofene funziona meglio contro il mal di testa della compressa presa da sola. E in effetti c'è un razionale. La caffeina migliora la cefalea attraverso una costrizione delle arterie cerebrali. Sì. Che vengono dilatate spesso durante il mal di testa, le emicranie in particolare. In più la caffeina potrebbe anche migliorare l'assorbimento dei farmaci analgesici o comunque interagire con questi rendendoli più efficaci. L'aggiunta di caffeina quindi ha il vantaggio di permettere di assumere una dose più bassa di farmaco e quindi di raggiungere lo stesso effetto terapeutico con minori effetti collaterali, perché sappiamo che ogni farmaco ha degli effetti collaterali. Quindi prima di alzare la dose di analgesico è bene provarlo in associazione con la caffeina, che oltretutto uno si gode anche un buon caffè. Esistono addirittura dei medicinali che contengono entrambe le sostanze, però non occorre andare su preparati particolari. Se uno, certo, non è allergico all'aspirina, può prendere tranquillamente un'aspirina più una tazzina di caffè. Dottoressa Tavani, lei ha parlato di farmaci. Dato che arrivano alcune SMS, ad esempio, Carlo sta prendendo le pillole per la pressione, Antonella vuole sapere se c'è una relazione tra pillola anticoncezionale e caffè, Giovanni alle prese con gli antinfiammatori e un'artrite, c'è una relazione tra caffè e alcuni farmaci? Cioè, l'assunzione di caffè può in qualche modo aumentare l'effetto dei farmaci, come lei ha detto, per l'aspirina, oppure magari ridurlo? Da un punto di vista teorico ci sono numerose interazioni della caffeina con diversi farmaci, soprattutto quelli attivi sul sistema nervoso centrale. Sì. Però per la maggior parte dei farmaci non ci sono evidenze di una rilevanza clinica di queste interazioni, quindi non ci sono degli effetti clinici manifesti, anche se la teoria le suggerisce, eccetto naturalmente per consumi molto alti di caffè, tipo 10 tazze al giorno, che comunque sono sconsigliabili, quindi non parliamo di interazioni a questi livelli di consumo, ma parliamo di interazioni a un livello di consumo delle 3-4 tazzine che stiamo consigliando. L'unica sostanza per la quale l'interazione con il caffè è veramente pericolosa è l'efedra e i suoi derivati, efedrina e pseudoefedrina. Cioè? Bisogna stare attenti perché queste sostanze, ed è buono a sapersi, sono contenute in numerosi preparati dimagranti, in parecchi integratori alimentari che assumono le persone che fanno sport e nei decongestionanti nasali, cioè quei prodotti che tengono libero il naso quando si ha raffreddore, certo. Insomma. Oltretutto questi prodotti sono in vendita nei supermercati o sono farmaci da banca e la gente li assume spesso senza il controllo medico. Quindi occhio all'assunzione di efedre e derivati in associazione col caffè, perché l'interazione tra caffeina e questi derivati dell'efedra può provocare tachicardie, ipertensione, aritmie cardiache, emorragie intracraniche gravi, se non addirittura mortali. Però il problema, il consiglio però non è, non eliminate la caffeina, eliminate l'efedrina, perché è quella che fa male. Quindi seguendo, se uno vuole fare una dieta dimagrante, segue una dieta DOC, se fa lo sportivo, soprattutto se a livello amatoriale, non servono gli integratori, basta fare una dieta equilibrata e normale. Per gli altri farmaci non ci sono interazioni importanti. C'è qualche interazione con i contraccettivi orali, qualche antibiotico, qualche antipsicotico, ma di nuovo bisogna salire a 10 tazze di caffè al giorno, altrimenti non ci sono problemi. Il problema ulteriore è quando si assumono molti farmaci, cioè la gente anziana che assume molti farmaci contemporaneamente, allora lì il discorso si fa più delicato. Tuttavia lì il problema è minore perché di solito c'è l'intervento del medico e quindi, certo, si sa. Allora andiamo a Pesaro, ci aspetta Silvano. Buongiorno Silvano. Buongiorno a lei, io volevo sapere due cose. Sì. A livello di ipertensione, sì, e a livello di diabete alimentare, sì, diabete di tipo 2. Che effetto può avere il caffè? Io sono un autotrasportatore, prendo da 3 caffè ai 5. Dai 3 ai 5 caffè? Sì. Professor D'Amicis, per il nostro amico Silvano da Pesaro, dai 3 ai 5 caffè, iperteso e diabetico di tipo 2. La caffeina ha capacità ipertensive, può aumentare la pressione in fase acuta. Sì. Al momento che si prende un caffè la pressione può salire un pochino, ma tra i consumatori abituali di caffè è riscontrata una pressione più bassa rispetto ai non consumatori. Questo è dovuto per la presenza di alcuni minerali nel caffè, per l'effetto diuretico del caffè e tanti altri aspetti. Quindi sul rapporti con l'ipertensione c'è ancora un pochino di, chiamiamola così, confusione tra effetto caffeina o effetto caffè. Il caffè da solo sicuramente fa bene. In questo caso potrebbe essere anche consigliabile prendere il caffè decaffeinato. Per quanto riguarda l'aspetto del diabete, sì, è importante sapere che recentemente molti studi stanno sostenendo che il diabete, che il caffè può addirittura prevenire o comunque migliorare il diabete. Caffè e gastrite, e io aggiungerei anche reflusso. Professor D'Amicis, possiamo dare delle indicazioni? Permesso, raccomandata un'assunzione moderata? Ma in questo caso dipende molto dalla persona, in questo caso sarebbe controindicato perché il caffè stimola la secrezione gastrica, quindi questo potrebbe aggravare i sintomi della gastrite. Per quanto riguarda il riflusso esofageo, anche in questo caso il caffè è controindicato. se la persona ne prende uno e questi fenomeni possono essere sotto controllo, questa sarebbe la sua dose che può prendere, altrimenti farebbe bene ad astenersi. Professor D'Amicis, di solito il caffè noi lo prendiamo al mattino per darci la sveglia. Solitamente, se seguiamo le indicazioni dei medici, dovremmo poi mangiare anche qualche cosa, perché sappiamo che la prima colazione è molto importante. Ma alcuni ascoltatori mi chiedono: ma è dannoso bere il caffè a digiuno? Buca lo stomaco, come ci scrive Carlo? No. Ho sentito che no. È uno stomaco che non è ben preparato ad accettare il caffè. Dunque il caffè di per sé non dovrebbe bucare così lo stomaco. Ma chiaramente, dovendo diciamo, prendendo il caffè, si ha una stimolazione, ripeto, della secrezione gastrica, quindi c'è una predisposizione a una digestione. Quando noi mangiamo abbiamo prima una secrezione gastrica, quando arriva l'alimento nello stomaco comincia la digestione. Sì. In questo caso il caffè ci prepara ad una digestione ed è giusto, come dice lei appunto, di dover mangiare, perché la prima colazione forse per me adesso rappresenta il pasto più importante della giornata, non per me in quanto consumatore, ma per me in quanto diciamo nutrizionista, perché da lì parte tutto l'equilibrio giornaliero. Quindi prendere un buon caffè la mattina assolutamente non fa male allo stomaco e predispone a una buonissima colazione. Andiamo a Raffaella, che ci chiama dalla provincia di Pisa. Buongiorno Raffaella. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti, Nicoletta. Io volevo sapere, in merito alla gravidanza, se ci sono controindicazioni. Sì. Io prendo un caffè al mattino, nero, normale. Se poi non mi sento di prenderne altri, preferisco dei caffeinati in questo momento. Prima, la gravidanza, ne prendevo mediamente 3-4 al giorno. Sì, a che mese è Raffaella? Al 5° mese. Bambino o bambina? Non sappiamo. Un bambino. Volta. Allora, intanto auguri. Grazie. Dottoressa Tavani, Raffaella continua a bere questo caffè. Alcune donne invece, proprio quando iniziano la gravidanza, già solo l'odore dà fastidio. Iniziamo a rispondere a Raffaella. Ma se si può bere il caffè durante la gravidanza è un argomento molto discusso. E diciamo che le ricerche sono focalizzate su tre tipi di problemi che possono insorgere. Uno è il rischio di aborto, uno è quello delle nascite premature, e l'altra è il basso peso alla nascita per l'età gestazionale del bambino. Per quanto riguarda il rischio di aborto spontaneo, quindi quello dei primi 3 mesi di gravidanza, gli studi sono molto discordi. Qualcuno dice che non influisce sul rischio di abortire, altri sì. L'interpretazione poi di questi studi è resa più difficile dal fatto, come diceva l'ascoltatrice, che alcune donne hanno molta nausea nei primi mesi di gravidanza e hanno una certa repulsione verso il caffè, quindi automaticamente diminuiscono il loro consumo di caffè. Però le donne che hanno più nausea sono anche quelle che hanno meno probabilità di abortire, perché hanno dei livelli di ormoni favorevoli alla gravidanza, diciamo così. Quindi è difficile interpretare poi questi dati e capire se è l'abolizione del caffè o se è lo stato iniziale della donna a favorire questo. Però in ogni caso, nel caso di dubbio, è meglio bere 1, al massimo 2 caffè al giorno durante i primi mesi. Per quanto riguarda gli altri due problemi, pure i dati sono controversi, ma di nuovo vale la stessa soluzione, cioè 1-2 caffè al massimo durante la gravidanza non dovrebbero far male. Professor D'Amicis concorda, no, dato che la comunità scientifica è un po', no, su questo aspetto ha discusso a lungo? Ho sostenuto dalla dottoressa Tavani, perché è vero, non dovrebbero essere superate le 150-200 mg di caffeina giornalieri. Aggiungiamo che vale anche per l'allattamento, perché il caffè non solo passa facilmente la barriera placentale, ma anche viene immesso nel latte molto facilmente. In linea con noi abbiamo Gianluigi Sora, che è presidente dell'Istituto Nazionale Espresso Italiano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, quando uno se lo prepara a casa ha ampio margine di scelta, si sceglie la miscela, decide di prepararselo con la moca, il caffè solubile, con la macchinetta. Quando si capita in un bar, allora, dottor Sora, lì è un po' un'avventura, ci sono caffè buonissimi e caffè, insomma, tazzine che lasciano l'amaro in bocca. Allora, ci aiuti, venga con noi a prendersi un caffè e ci aiuti a capire come riconoscere proprio all'occhio un buon caffè espresso. Ma come lei giustamente ha anticipato prima, entrano in funzione diversi sensi proprio nostri dell'essere umano.

può andare a fare una visita senza particolare timore, questa è l'età giusta per iniziare a portarlo da un dentista, possibilmente che si occupi di bambini. Quindi sappia approcciare in maniera corretta. Sì, perché sono tosti i bambini piccoli, cioè non è che aprono la bocca così, dottore? Io che curo particolarmente o quasi prevalentemente bambini piccoli, posso dire che i bambini piccoli sono dei pazienti stupendi, sono molto disponibili e molto collaboranti. Bisogna approcciarli nel modo adatto a un bambino piccolo, esattamente come si fa a scuola, non vengono trattati da studenti universitari, ma vengono trattati da studenti delle materne. Certo. La stessa cosa bisogna fare con le visite mediche, il bambino va approcciato nella maniera adeguata, cercando fondamentalmente un colloquio col bambino, più che imporre magari una visita medica subito inizialmente. Dottor Bruno, la ringrazio, la lascio ai suoi bambini allora. La ringrazio. Buona giornata e buon lavoro. E per oggi è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e come sempre vi do appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Buon pomeriggio da Nicoletta Carbone.